effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E ciao, un salutone a tutte e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Siete su Radio Wombat e questo è lo spazio della stampa rassegnata. Trasmissione che si occupa di dare uno sguardo alle cronache, spesso e volentieri, anzi ultimamente abbiamo fatto più volte ricorso a telefonate, a interventi, ospitando insomma delle voci che ci potessero dare dei pareri e delle informazioni puntuali e competenti, cosa che proveremo a fare anche oggi nei limiti del possibile. Ricordandovi che ci potete ascoltare in diretta il lunedì alle 15.30 oppure in replica il mercoledì alle 23.59 o il giovedì alle 8.30, chiaramente dirette o repliche che vanno sia in streaming attraverso quindi la più normale rete, oppure per chi è diciamo fortunato e si misura anche con le onde medie di frequenza, ci può trovare all'1359 in onde medie per l'appunto quando passa o si trova nella zona nord-ovest della città di Firenze, che è quella un po' più coperta con la possibilità di arrivare fino a una bella parte di Sesto, un po' Calenzano e forse anche Campi Bisenzio. Questo ci dà la possibilità di in qualche modo rivolgersi e dare uno sguardo il più possibile interessato e critico anche a quello che accade nella Piana Fiorentina, come sapete, con particolare riferimento alle due vertenze popolari che sono quella contro la costruzione dell'inceneritore di Firenze, più precisamente Case Passerini, e tutto il riassetto dell'area nord-ovest dell'area metropolitana fiorentina legata all'aeroporto e alla sua progettata espansione attraverso il master plan di Toscana Aeroporti, che va verso la conferenza dei servizi definitiva e forse decisoria del fissata per il 29 gennaio a Roma. Detto questo, bando alle ciance o perlomeno ad altre ciance ed entriamo un po' subito nel vivo di una prima notizia che ci sembra rilevante dare. La prendiamo da Repubblica. Tubirotti, Nardella si infuria con Publiacqua. Sottotitolo: lavorino giorno e notte, altrimenti ricorrerò alle vie legali, annuncia. L'attacco arriva proprio nel giorno in cui l'azienda avvia in quattro palazzi il progetto pilota del contatore intelligente che blocca le perdite a distanza. Non stiamo a leggere l'articolo, quello che è successo forse l'avete visto perché ha rimpallato nelle cronache e in più giorni, ora abbiamo preso questo tanto per prenderne uno come articoli. Grosse perdite, grossa rottura dei tubi legate anche al gelo, ma insomma la situazione di Publiacqua resta, come abbiamo già fatto notare, è una situazione abbastanza critica e di questo ne vogliamo parlare con qualcuno. Anche oggi ci colleghiamo con Rossella, una delle portavoci del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, per chiedere e parlare insomma un po' con lei di quello che è successo dopo le votazioni di cui avevamo parlato ormai un anno fa, perché era il 2018, e per chiedergli un po' un commento rispetto a quello che abbiamo visto sul giornale, sui giornali questa settimana, delle polemiche, crediamo del tutto sterili e strumentali, ma insomma che ci sono state e che sono state oggetto di articoli giornalistici tra Nardella e Publiacqua. Avrete visto, forse anche voi ascoltatori e ascoltatrici della radio, che ci sono stati dei problemi con alcuni tubi rotti. D'altronde qui ogni volta che succede qualcosa sembra di essere di fronte a chissà quali cataclismi, mentre Publiacqua pensa a lanciare il progetto Acqua Preziosa con, niente può di meno che un contatore intelligente per copiare quello che succede con le altre utenze, però insomma si rompono poi i più banali tubi. Rompendosi i più banali tubi, Nardella se la prende perché si creano disagi e costi, E niente, però insomma parliamone con qualcuno che segue le vicende più da vicino e che ci ha già più di una volta ormai fatto un quadro sintetico ed efficace della situazione in Publiacqua. Ciao Rossella, buongiorno a tutti. Vai pure libera e dici il tuo punto di vista, insomma. Allora, io inizio con una presa in giro citando il film di Benigni quando dice quanto costano le banane a Palermo. Io vorrei sapere quanto costano i tubi a Firenze, perché questa è una situazione veramente che è paradossale. Cioè, che era Johnny Stecchino. Ma la cosa più paradossale è che questo scagliarsi di Nardella contro Publiacqua. Cioè, io vorrei ricordare che Firenze è uno dei soci più importanti di Publiacqua. Firenze ha sempre nominato il presidente di Publiacqua, vorrei ricordare Erasmo D'Angelis, poi Filippo Vanoni, e adesso addirittura sta proponendo la nomina di Ferra a presidente di Publiacqua, che assessore al bilancio, o sbaglio? Cioè, ma dove si vive? Oltretutto sono i sindaci che hanno la possibilità tramite l'AIT di controllare. Cosa hanno fatto in tutti questi anni? Cioè, io chiedo cosa abbiano fatto in tutti questi anni. Ricordo che la cessione a Publiacqua nel 2002 è stata fatta perché venisse rinnovata la rete idrica. La rete idrica non è stata assolutamente rinnovata, anzi abbiamo oggi molte più perdite rispetto al 2002. Sulla defurazione siamo sotto infrazione dalla Comunità Europea, per cui anche lì gli investimenti evidentemente non è stata fatta a sufficienza. In compenso abbiamo le tariffe più care d'Italia. Cioè, questo, quindi io mi chiedo quale controllo abbia svolto il comune che ha le maggiori quote in Publiacqua, perché Publiacqua, Firenze possiede il 21% di quote in Publiacqua e tutti gli altri comuni messi insieme hanno solo il 13%, quindi ha un potere assoluto. Evidentemente non hanno i sindaci di Firenze in questi anni, non hanno assolto il proprio ruolo. È vero, la rete idrica è veramente un colabrobo. Io so, vorrei ricordare quali sono i prelievi di acqua. Sì, ricordiamolo, i certo. I prelievi di acqua sono 166 milioni, ne vengono fatturati soltanto 81 milioni, quindi una cosa impressionante, meno della metà. L'autorità idrica insiste a dire che le perdite sono il 38%, mentre i dati tra fatturato e prelevato chiaramente queste perdite non tornano, e addirittura la stessa Publiacqua riconosce che siano superiori al 38%, perché dice che arrivano alla distribuzione 151 milioni di metri cubi, arrivano alla distribuzione, per cui le perdite sono elevatissime, consistenti. E poi vorrei ricordare che tipo di investimenti noi paghiamo, perché la maggior parte degli investimenti che noi paghiamo non sono per il rinnovo della rete, sono legate alle manutenzioni della rete, quindi se si cambiano 6 metri di rete viene considerato un investimento, e quindi questo ci rientra addirittura per quanto dovremo pagare a fine concessione, che purtroppo è già stata prorogata fino al 2024, come investimento fatto dal gestore. No, ma infatti, ma quindi scusa Rossella, ricordo ma... anche tutti gli indicatori sulla qualità tecnica. Publiacqua risulta tra i peggiori gestori italiani sulla qualità tecnica, sulle perdite, le classi sono 5 dalla A alla E, Publiacqua si colloca in classe D, quindi fra i penultimi. se si parla poi di cifre, sono una cosa impressionante. Ogni metro di rete idrica perde 8 metri cubi e mezzo d'acqua l'anno, quindi è una cifra veramente impressionante. Certo, ma scusa Rossella, ma quindi rispetto a questa polemica diatriba recente, ma Nardella cos'ha da lamentarsi in sostanza? Cioè è lui che è l'azionista, allora, di maggioranza. È andato giù il Ponte Vecchio. Sì, a Lungarno Torregiani, sì. Lungarno Torregiani, scusa. No, certo, l'avevamo capito. Assolutamente niente, anzi puntualmente il ripristino di quell'area è stato fatto pagare a tutti i sindaci fiorentini. Allora, Publiacqua dice di voler mettere contatori intelligenti. Ecco, infatti. Il contatore intelligente lo mette all'utenza per vedere se c'è una perdita all'utenza. Certo. D'accordo? Publiacqua è dotata di un sistema di telecontrollo degli impianti, quindi a rigor di logica dovrebbe già da ora vedere se ci sono perdite nella rete idrica, perché se c'è un consumo anomalo in un determinato punto della rete idrica, significa che c'è una grossa perdita. E per creare delle voragini nel terreno come si sono create, significa che Publiacqua o questo sistema di telecontrollo non funziona veramente e ce lo dicano, che è una grande bufala, o se funziona potrebbero intervenire prima di creare danni. E invece tutto questo non avviene. Telecontrollo, ripeto, tutti i sistemi informatici di Publiacqua, controllo del lavoro, fatturazione, sono stati pagati dai cittadini e pagati cari dai cittadini. Funzionano, non funzionano, oppure è Publiacqua che nonostante le abbia messe in funzione poi non adotta le misure necessarie? Io abito nel Valdarno e metà San Giovanni è andata qualche anno fa sott'acqua dalle fognature di Publiacqua, perché uno scolmatore che dovrebbe scolmare in Arno il refluo di Fognano quando piove tanto. Certo. Invece è avvenuta la cosa inversa: siccome non era munito di sportello, è entrata l'acqua dell'Arno in fognatura. Ah. E anche lì l'intervento è stato oramai quando il danno era stato fatto, in mezzo a San Giovanni Valdarno è finita sott'acqua, acqua dell'Arno e reflui fognari. Io vorrei sapere appunto se questo telecontrollo dell'impiantistica funziona o meno, anche perché cioè, non si occupa solo il telecontrollo della rete, ma si occupa di tutta una serie di altri impianti, quindi si occupa dei potabilizzatori. I potabilizzatori sono quelli che ci erogano l'acqua potabile. Se questi impianti sono telecontrollati e se funziona male qualcosa, noi rischiamo grosso, perché noi beviamo l'acqua di questa cannella. Se non funzionano, noi si rischia di avere acqua non potabile con rischio alla salute umana. Sì. E scusa, quindi Rossella, vorremmo avere informazioni oltre ai tubi rotti e alle perdite, vorremmo avere informazioni anche più precise su tutto il sistema di telecontrollo. E senti Rossella, scusa, ma quindi l'hai già detto, però se riesci a entrare più nel merito è un servizio di informazione per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma quindi quella che Publiacqua chiama operazione acqua preziosa, no? Come se giustamente non avesse già sufficientemente dato spregio a questo termine, e ai contatori intelligenti, ma se non hanno il vero obiettivo di controllare le perdite della rete, perché ci hai già spiegato che controllerebbero le perdite dell'utente, il quale se c'ha una perdita sarà il primo ad accorgersene, cioè, no? Ma se io ho una perdita, quindi mi accorgerò della perdita, non ho bisogno del contatore intelligente, no? Tant'è che il grosso delle perdite sono nella rete. Se ne rendano conto, però c'è anche un sistema per innanzitutto le perdite dopo il contatore non sono mai ingenti, ecco, come quelle prima a monte in una grossa rete che serve la città, ovviamente tubi che vanno ai contatori, che dal contatore partono per arrivare alla cassa, sono molto più piccoli, per cui le perdite in cassa sono molto minori. Oltretutto la carta dei servizi prevede che se un cittadino ha un consumo anomalo rispetto a quello standard, sì, Publiacqua lo deve segnalare all'utente, per cui ha il dovere, insomma, arrivare l'avviso di Publiacqua che te quel trimestre ha avuto un consumo molto più alto e controlla se non hai una perdita. Certo. Un contatore intelligente può essere una garanzia in più, ma se l'utente non lo guarda, credo, e la lettura d'obbligo la dovrebbe fare almeno due volte l'anno Publiacqua, quindi dovrebbe comunque Publiacqua avvertirti. Quindi in pratica non aggiungeranno niente. Però non avvengono dopo i contatori. Queste perdite che io parlavo, che grosse, avvengono prima dei contatori domestici, avvengono nelle grosse tubature che portano alle vie o a qualche piccolo paese o nelle vie di Firenze che portano l'acqua, e quelle secondo me a rigore, se esiste un telecontrollo dell'impiantistica, dovrebbero essere già monitorate con il telecontrollo. Quindi praticamente i contatori intelligenti vanno a risolvere il nulla, sarà un ennesimo affare che pagheremo, certo, in bolletta, e che non servirà a risolvere i problemi. Che pagheremo in tariffa. Da notare poi che Publiacqua ha in quest'ultimo periodo sostituito tutti i contatori e quindi si appresta nel giro di qualche anno a fare una nuova sostituzione dei contatori. Qui non si finisce più. Sì. Invece di fare gli investimenti veramente necessari sulla rete, che secondo me questi sono molto più necessari, considerando anche il fatto che in varie aree della Toscana e soprattutto di Publiacqua ci sono un sacco di tubature in amianto. Le rotture delle reti in amianto secondo noi sono molto più pericolose. Non c'è dubbio. C'è la diatriba sull'amianto, che una parte del mondo scientifico dice che l'amianto fa male solo respirato, mentre ci sono altri studiosi che, certo, sostengono che fa male anche ingerito. Noi siamo più su questa questione qui. Noi comunque diciamo ci deve essere un principio di precauzione grosso. Giustamente. Ma non solo, ma se io mi lavo i vestiti con l'acqua dell'acquedotto, do il cencio, come si dice in Toscana, sì, sì, in terra, poi si asciuga. Dopo c'è anche lo spolvero nell'aria, per cui non solo si ingerisce bevendola, ma ci si trova anche spolverata nell'aria, nell'ambiente domestico. Assolutamente d'accordo, insomma, non c'è bisogno di ricorrere a particolari. Quindi, argomenti. La prima grossa operazione, prima dei contatori intelligenti, secondo noi la prima operazione è salvaguardare il sistema di depurazione e risistemare le fognature e la depurazione, perché se noi non risistemiamo questo ci troveremo una qualità dell'acqua sempre peggiore, per cui sarà sempre più difficile renderla potabile per il consumo, sì, umano. Poi Rossella, io avevo già accennato l'altra volta che in Toscana non abbiamo fonti d'approvvigionamento d'acqua potabile superficiali buone, che nella classe di mezzo c'è solo il 10%, che il 50% è di pessima qualità e che addirittura un altro 40% ha bisogno di deroghe. Quindi se noi non si risolve questo problema a monte, rendendo efficace il sistema fognario e la depurazione, a voglia a acqua di qualità e acqua intelligente, che se secondo noi ci sono grossi dubbi di poter sanare il sistema sistema. Certo, quello che dici è proprio è l'urgenza e proprio per questo ti chiederei, ci sono degli appuntamenti in vista per diciamo le lotte, le battaglie per l'ammodernamento della rete in difesa appunto dell'acqua bene comune, o è un momento in qualche modo di stallo? Domani ci sarà un grande convegno a Pistoia sulla questione dei pesticidi e dell'agricoltura potabile. Anche La regione Toscana ha di recente approvato una legge, purtroppo, che autorizza l'uso di alcuni pesticidi non consentiti nemmeno dalla Comunità Europea vicino alle fonti di approvvigionamento dell'acqua potabile. Quindi, oltre al problema degli scarichi fognari che spesso finiscono nell'acqua, ci sono pesticidi che finiscono nell'acqua, ci sono attività industriali che scaricano dei residui che finiscono nell'acqua. La situazione in Toscana, ripeto, è molto molto complessa. Questo è un appuntamento, ci tengo a dirlo, importante, che sarà a Pistoia. C'è un altro appuntamento su cui noi daremo battaglia e stiamo dando battaglia, e lunedì ci sarà l'assemblea di Publiacqua per la nomina del presidente di Publiacqua. Il caro sindaco Nardella, dopo aver detto che avrebbe ripubblicizzato l'acqua, come tutti sapete, poi ha approvato una proroga di 3 anni, rimandando la ripubblicizzazione a mai più. C'è uno scontro fra i comuni di Prato e di Firenze sulla nomina del presidente. Firenze propone l'assessore Perra, Prato sembra Barni di Consiag. Chiaramente Prato ha molte quote in Consiag. Sì. E lunedì si vedrà quale sarà l'esito della cosa, ma noi diciamo che non vanno bene nessuno di questi presidenti, perché il PD toscano è stato il fautore della privatizzazione dell'acqua. Sì. Allora, la prima società mista in Italia privatizzata si è avuta noi. È stata Nuove Acque Arezzo, con l'ingresso di Suez e poi d'Acea. Certo. È stata la Toscana a avviare il processo di privatizzazione. Fai bene a ricordarlo, vero? Non solo, ma è stata la Toscana la prima a dare una risposta negativa al referendum con la legge 69. Vinto il referendum, la regione Toscana ha approvato questa famosa legge 69 in cui si parla di ripubblicizzazione di servizio, ma che ha creato un'unica autorità regionale, mentre noi sosteniamo che l'acqua deve essere gestita e salvaguardata a livello di bacino idrografico. Praticamente ha messo nelle mani di Fuochi il direttore, la presidenza e di Fuochi la gestione dell'acqua, senza che ci sia una gestione da parte effettiva di tutti i sindaci, magari con la partecipazione dei cittadini. Quindi che siano gli stessi a traghettare il processo di ripubblicizzazione a noi non ci sembra molto credibile. Infatti qualche tempo fa abbiamo fatto un comunicato stampa e abbiamo lanciato per la presidenza Maurizio Montalto, che è stato il presidente di ABC di Napoli, è l'unico comune che ha avviato subito dopo il referendum il processo di ripubblicizzazione e a tuttora è l'unica azienda pubblica in tutta Italia. Noi avevamo proposto qualcuno che si era già impegnato, che aveva già fatto, che molto probabilmente è a conoscenza dei processi per ripubblicizzare. Ma siamo purtroppo lontani, siamo ancora molto lontani da quello che bisognerebbe e ci piacerebbe fare. Comunque, Rossella, sta sempre un grande piacere sentire la tua voce, le tue impressioni, Anche se a volte le cose si ripetono, ma questo è insomma inevitabile quando si parla di alcune cose, però ci risentiamo ogni tanto per avere degli aggiornamenti e quindi anche attraverso i nostri microfoni avete in qualche modo una panoramica sempre completa e sempre aggiornata di quello che è il mondo delle lotte Dell'acqua dell'acqua e e della delle lobby nostra. in Delle lobby generale. della nostra martoriatissima regione, che come ha fatto bene a ricordare anche Rossella, per quanto riguarda l'accettazione dei paradigmi neoliberisti e neoliberali, è sempre stata in prima fila. Il PD toscano non ha niente da imparare da nessuno e purtroppo ha dato molte lezioni in giro, e aver proiettato la stella di Renzi al governo nazionale non è certamente un caso. E niente, quindi salutiamoci con Rossella per risentirci più avanti, quando ci saranno nuovi aggiornamenti e nuove informazioni anche da questo importante fronte. Ciao Rossella e a Ciao a presto. tutti! E facciamo una brevissima pausa musicale andando a ripescare un vecchio brano di rock progressivo italiano, Gli Albero Motore con Messico Lontano. Grazie. Eccoci rientrati in voce per chi si fosse collegato adesso. Questa è Radio Wombat, la trasmissione La Stampa Rassegnata. E ricordandovi che ci potete ascoltare nella diretta del lunedì alle 15.30 o nelle repliche del mercoledì alle 23.59 o del giovedì mattina alle 8.30, o che ovviamente ci potrete sentire sempre attraverso lo scaricamento dei podcast dal sito della radio, che trovate tranquillamente digitando Radio Wombat Firenze da qualsiasi motore di ricerca. Oggi ci siamo occupati prima dell'acqua con un intervento a seguito delle polemiche di Nardella con Publiacqua, ci siamo collegati con una compagna del forum, una portavoce dei forum italiani dei movimenti per l'acqua, Rossella, che ci ha fatto un commento competente e ci ha offerto il suo punto di vista. E allora eccoci al telefono con Jacopo, un educatore, un dipendente di cooperativa sociale, un lavoratore del sociale per l'appunto, per sapere cosa succederà questa settimana di mercoledì allo Spazio Inchiostro, dove c'è un significativo, curioso e interessante appuntamento di discussione, di assemblea, di ritrovo, di conoscenza tra lavoratori per l'appunto del sociale. Ciao Jacopo, se ce lo vuoi spiegare, il microfono è tutto per te. Sì, ciao a tutti. Mercoledì 23 allo Spazio Inchiostro ci sarà il secondo appuntamento di questo aperitivo, assemblea autoconvocata promossa da un gruppo di educatori e educatrici che lavorano per cooperative dell'area fiorentina, un tentativo di restituire il protagonismo a un gruppo di lavoratori indipendenti, lavoratrici indipendenti che stanno cercando di fare un punto insieme su una questione così essenziale come quella del lavoro e particolarmente di questo ambito lavorativo che, diciamo, d'entrata vive un momento anche molto complicato. Essendo sono 6 anni che il contratto nazionale di lavoro è scaduto e il rinnovo in corso non promette particolarmente bene per tutta una serie di motivi. Che poi semmai spieghiamo con calma. Per Certo. cui, insomma, poi l'idea è quella che è venuta a noi, a un gruppo di compagni e compagne che fanno questo lavoro in ambito educativo, scolastico, domiciliare, dell'accoglienza, della cura nelle comunità, insomma, di metterci insieme e lanciare un'esperienza indipendente, anche perché a Firenze noi veniamo da una stagione in cui ci sono state pure nel passato lotte interessanti, grazie all'attivazione sindacale, in particolare dell'Unione Sindacale di Base, dell'USB, ma che in questo momento noi riteniamo ci sia più bisogno di un protagonismo diretto e attivo dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto a un'attività sindacale che per differenti motivi delle due sindacati che sono presenti a Firenze in questo servizio, cioè CGIL e USB, scontino in qualche misura anche dei limiti di protagonismo e di attività che crediamo si possano superare la relazione diretta e quel protagonismo dal basso, come sarebbe detto una volta. Bene, benissimo. E quindi mercoledì ci si ritrova per parlare e più precisamente per parlare di che? Quali sono all'ordine del giorno delle lotte, delle vertenze dei lavoratori del sociale, le questioni che sono aperte? Allora, ci sono delle questioni che sono di carattere nazionale, nel senso che, come dicevo, c'è in primo luogo un contratto collettivo nazionale di lavoro che è scaduto da 6 anni e il rinnovo in corso fra CGIL e CISL e UIL che sono sedute al tavolo e le associazioni di categoria, con cooperative, Lega Coop, stanno promettendo veramente poco di buono. Basti pensare che le notizie che trapelano parlano di 87 euro di aumento lordo mensile sul full time dopo 6 anni. 87 euro lordi mensili sul full time vuol dire che nella realtà innanzitutto nessuno di noi svolge un lavoro full time, perché ammesso che anche qualcuno ce la facesse fisicamente a reggere 38 ore di lavoro settimanali di questo tipo di servizio, poi molti di noi sono soggetti al part time ciclico verticale obbligatorio, la famosa sospensione estiva per cui lavorano soltanto 9 mesi l'anno. Oltretutto a questa già irrisoria somma di aumento, dopo 6 anni, ripeto, si aggiungono la cosiddetta sanità integrativa che decurta ulteriormente lo stipendio, cioè le cooperative pensano bene di tagliarci lo stipendio in cambio di accordo con istituti sanitari convenzionati che potrebbero praticare attività sanitarie per i dipendenti a prezzi ridotti. Però, premesso, io voglio scegliere come voglio andare a curarmi. Beh, è comunque un'ulteriore decurtazione dello stipendio che va a colpire i lavoratori e le lavoratrici. A questo si aggiungono altre questioni aperte, sempre in sede di rinnovo dei contratti di lavoro, per esempio la questione delle notti passive che riguarda chi lavora nelle comunità o terapeutiche o di accoglienza, nel senso che spesso in alcuni i lavoratori sono costretti a restare la notte sul posto di lavoro, ma gli vengono retribuite esclusivamente le ore fino a mezzanotte e dalle sei in avanti. Le ore di servizio notturno non vengono considerate come ore di lavoro perché si presuppone che il lavoratore possa dormire, anche se è obbligato a farlo in struttura, e gli viene pagato eventualmente soltanto i minuti, tra virgolette, di risveglio. E quindi tutto il resto viene pagato con un forfait che è insomma abbastanza irrisorio. Poi sono altre questioni in ballo, dalla questione della geolocalizzazione. Noi abbiamo già assistito a lotte, deciso una della cooperativa Eris di Vimercate vicino Milano, contro l'obbligo di geolocalizzarsi sul cellulare una volta arrivati sul posto di lavoro per verificare esattamente i minuti di lavoro lavorati e che si sia effettivamente sul posto di lavoro. Mm-hmm. Oppure questioni inerenti il mansionario, per cui sono sempre più complicate le mansioni ci vengano affidate senza aumento di stipendio e di retribuzione. E poi sempre sul piano nazionale c'è sul tavolo la questione dell'ex legge Iori, che è il regalino ultimo che ci ha lasciato il governo Gentiloni nel documento economico finanziario, quando ha inserito una norma raccogliendo una proposta di legge che veniva dalla senatrice del PD Iori, per la quale i lavoratori non in possesso di un titolo di laurea in scienze dell'educazione sono obbligati a conseguire 60 crediti formativi in un corso qualificante ma non abilitante ma non qualificante, cioè che praticamente non dà un titolo di laurea ma soltanto una qualifica lavorativa presso l'università a carico del lavoratore, cioè si tratta di una formazione in cui si è obbligato a fare un percorso formativo universitario per svolgere lo stesso lavoro che si svolgeva al 31 dicembre del 2017, quando poi la legge è entrata in vigore, senza aumento di stipendio, senza aumento riqualifica delle mansioni, quindi senza aumento di retribuzione delle mansioni, però a carico del lavoratore. Noi non abbiamo un'attitudine antiformativa, né io né i colleghi siamo contro la formazione evidentemente conducendo questa lotta, ma vogliamo, come credo sia giusto che sia, che la formazione venga pagata o dagli enti appaltanti, quindi dalle regioni, dal comune, dallo Stato, o dalle cooperative, cioè dai datori di lavoro, che si ritrovano ad avere un personale qualificato, se no altrimenti a carico dei lavoratori, che è paradossale, perché in qualche misura si tratta veramente di esercitare una formazione per ottenere un titolo, per essere abilitati a svolgere una professione per la quale si era già abilitati, perché si erano stati assunti spesso a tempi indeterminati. Quindi siamo a livelli di ricatto legalizzato, frutto dell'accordo malsano fra un'università in crisi ha bisogno di soldi, l'Accademia appunto e la politica che gli ha fatto da spalla e da contraltare, e su questo evidentemente anche con degli interessi diretti, chiaramente intuibili, non probabili, da parte anche di settori non solo della sinistra istituzionale, penso al PD direttamente che l'ha promossa questa legge, ma anche della CGIL stessa, che comunque ha pensato bene a giugno scorso di indire un'assemblea a Firenze apparentemente contro la legge Iori, nella quale però ha fatto uno spot gigante ai corsi dell'università. Si è visto anche questo, insomma, no? Abbiamo visto anche questo, appunto. Quindi siamo di fronte a una questione nazionale come questa, a un'altra questione nazionale particolarmente significativa, che è quella del decreto Salvini. Il decreto Salvini, oltre a colpire direttamente e a minacciare la vita di migliaia di persone, di centinaia di migliaia di immigrati che arrivano, vogliono arrivare o sono in questo paese, è comunque di ieri la notizia dell'ennesima strage in mare e il cinico commento giubilante del soggetto in questione, e Oltre a questo, evidentemente la sua matrice razzista ha una parte dedicata alla criminalizzazione delle lotte, come voi sapete meglio di me, no? I reati anche solo per l'istigazione all'occupazione si rischia la galera con il decreto Salvini, o per il blocco stradale se uno attraversa tre volte la strada durante un presidio, insomma a questi livelli. E di fronte a tutto questo c'è pure una messa in discussione dei costi di lavoro, perché chiaramente eliminando gli SPRAR, tagliando i fondi ai CAS, cioè i due servizi d'accoglienza statale, istituzionale, che per quanto miseri e problematici comunque rappresentavano una possibilità, un'opportunità per alcuni, i primi servizi a essere in discussione sono i servizi inerenti all'accoglienza svolta da operatori sociali. Questo vuol dire che, secondo una stima fatta dall'Unione Sindacale Italiana, su circa 50.000 lavoratori del sociale che ci sono nell'accoglienza oggi, ce ne sono oltre 10.000 a rischio diretto di perdere il posto di lavoro. Si tratta appunto di un attacco vergognoso che si situa all'interno di, un quadro più vergognoso d'attacco che questo governo rappresenta la libertà e i diritti di tutti, con la zelante complicità dei 5 Stelle, con fascio leghisti della Lega in prima fila. Quindi anche per noi è particolarmente importante anche questo tipo di battaglia. Queste sono battaglie nazionali che chiaramente si legano e si situano in un contesto come quello cittadino, nel quale noi ci stiamo facendo portatori di queste istanze, anche raccogliendo un sentimento e una volontà di lotta più generalizzata che si sta respirando in Italia. Noi abbiamo partecipato, come esperienza dell'assemblea autoconvocata dei lavoratori e delle lavoratrici, a due momenti di assemblea nazionale, uno si è svolto a novembre, uno a gennaio di recente, in cui c'erano presenti realtà sindacalizzate e auto-organizzate, per cui differenti esperienze sindacali, ma anche differenti esperienze auto-organizzate, che venivano operatori sociali di oltre 12-13 città nazionali del centro-nord, da Genova a Roma, da Padova alla Spezia, da Milano a Savona, insomma, passando per Bologna e anche Firenze, evidentemente. A questo piano nazionale noi stiamo cercando di aggiungere alcune rivendicazioni tipiche cittadine, diciamo così, per cui stiamo riflettendo insieme su come poter affrontare la prossima cambi d'appalto che si prospettano, per cui diventando protagonisti anche della scrittura delle linee guida dell'appalto, questo è il modo per garantire le nostre attività, e soprattutto anche avviando una campagna che vogliamo lanciare a livello cittadino intanto, ma nazionale, che si chiama Dateci 10. Non è una campagna che ha come obiettivo quello di avere come posso dire, uno scambio di mani, no? Come sai, dacci 10, no? È semplicemente la rivendicazione di chiedere 10 euro l'ora come salario minimo garantito per i lavoratori del sociale, perché noi, al di là dell'inquadramento professionale, di uno, di due, sono termini tecnici, non interessano a nessuno, però al di là dell'inquadramento professionale, oscilliamo fra i 6,50 euro e i 7,50 euro l'ora di retribuzione netta in questo momento, che è veramente una vergogna se si pensa che si parla di un lavoro di cura, di assistenza, di accoglienza, di solidarietà, di accompagnamento, di sostegno verso persone spesso in difficoltà, verso persone nel decesso. Un lavoro insostituibile, perché comunque tappa buchi di tante mancanze dello Stato, okay? Perché noi svolgiamo un servizio dello Stato non più in grado di garantire quello del sostegno alle persone in difficoltà, quello dell'accompagnamento dei minori non accompagnati, dei disabili, insomma, si tratta di un lavoro particolarmente prezioso che viene distribuito da fame spesso non per un tot periodo dell'anno, con orari impossibili, quindi si parla di veramente di una necessità, come posso dire, di restituire dignità a questa professionalità che questa retribuzione salariale non garantisce, di restituire serenità a chi vive di questo lavoro, e sono tanti, perché si parla di centinaia di migliaia di lavoratori in Italia, si tratta di riprendersi in mano la possibilità di rappresentare una categoria di lavoratori finalmente considerata degnamente come tale, non come veramente merce da esternalizzare, da sfruttare come siamo considerati in questo momento, per cui il Comune di Firenze anche si fa bello del servizio di assistenza educativa e di tutti i servizi e le operative sociali, i lavoratori delle operative sociali garantiscono, salvo poi pagarci attraverso le operative che poi lucrano pure su questo in maniera abbastanza ridibile, risibile e ridicola. Sì. E senti Jacopo, questo appuntamento dello spazio inchiostro non è il primo, se non sbaglio, no? E qual è stata fino ad ora la risposta, la partecipazione dei lavoratori, dei vari appalti, di diverse mansioni, come sappiamo, in un settore così frammentato? C'è risposta, c'è tensione rispetto a questo tentativo di ricomposizione? O c'è freddezza? No, c'è un inizio, diciamo così, di risposta. Siamo a un inizio, non vogliamo nemmeno sparare più alto delle nostre possibilità. È un inizio di risposta perché chiaramente noi veniamo innanzitutto da una disabitudine in questo settore alle lotte che si è manifestata nel corso degli anni, a una problematica sindacalizzazione che si è data, che è giusta, è importante, è legittima e ha visto anche qualche lotta significativa, però che vede adesso i due principali sindacati presenti sul territorio in questo settore, cioè CGIL e USB, differentemente concentrati su vertenze proprie che stanno un po' perdendo di vista il carattere generale dell'offensiva, di cui c'è bisogno da un punto di vista della lotta. Mi riferisco al fatto che la CGIL è una delle organizzazioni sindacali confederali seduta al tavolo delle trattative per il concorso, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e che quindi sta svolgendo una funzione, come dicevo prima, anche calmierante verso una serie di tensioni sociali che potrebbero emergere, come ha sempre fatto del resto negli ultimi anni, insomma. D'altra parte USB, che ha dei tratti di radicalità maggiore, che ha manifestato in quest'anno, a loro si deve la principale lotta, per esempio, per mantenere il servizio attivo anche durante il periodo d'assenza dei ragazzi a scuola, no? Quindi lotte anche importanti, però in questo momento anche è impegnata su questioni emergenziali particolari, nelle quali si sta ritagliando una propria attività di intervento significativa, ma che secondo me le fanno perdere il quadro generale. Questa è la nostra opinione. Penso al fatto che l'OSP è particolarmente concentrata sulla vertenza per l'annualizzazione dei contributi pensionistici. No, noi lavorando 9 mesi l'anno, se lavoriamo 40 anni ne riscuotiamo 30, come se fossero lavorati 30 per la pensione. È giusta la distribuzione su 12 mensilità, però non è certo la questione fondamentale in un momento in cui la retribuzione è così bassa e ci sono questioni molto più importanti. Quindi abbiamo preso l'iniziativa e scelto di provare un'altra esperienza auto-organizzata. La risposta è stata iniziale ma significativa. All'ultima assemblea abbiamo svolto poco prima di Natale, c'erano lavoratori di 6 cooperative differenti, quindi non soltanto delle cooperative che storicamente sono impegnate nel servizio di assistenza educativa a Firenze, sono la Corata, il Consorzio Zenit e la Divinitone, ma anche di altre cooperative dell'Arca, del Cepis, dell'Ancora, cioè di cooperative che fanno anche lavoro di servizio d'accoglienza, appunto nei centri d'accoglienza, che lavorano in strutture per minori, terapeutiche o di prima accoglienza, di primo soccorso. Insomma, c'è una risposta iniziale, noi speriamo che cresca, chiaramente in questo senso va l'esperimento di questi aperitivi assemblea, che non sono soltanto assemblee, sono anche aperitivi perché ci piace anche stare insieme, quindi perché noi sappiamo che per fare lotte bene e per essere bene insieme, fianco a fianco, quando si lotta c'è bisogno di conoscersi un po', c'è bisogno di sapere su chi si può contare, c'è bisogno di iniziare a conoscere, di fare esperienze insieme, e in questo senso questi aperitivi auto-organizzati, seguiti poi da questi momenti di discussione allo spazio inchiostro, ci sembrano per adesso funzionare, ecco. Noi aspettiamo per il 23 un po' più di gente, vediamo. Comunque la notizia sta girando. Poi sappiamo che il tipo di lavoro che facciamo noi, come dicevi tu, è molto frammentato. Il fatto di non avere fisicamente i propri colleghi uno accanto a sé, come succede sul posto di lavoro, rende più difficile tutto questo, perché io ne vedo una di colleghi, che è quella che lavora a scuola con me, tutti gli altri 250 che lavorano nella mia cooperativa li posso raggiungere con un messaggino, con un'email, con un volantino, però non c'è la possibilità di dialogarci quotidianamente per costruire insieme un percorso. Quindi questo sicuramente rende più complicato l'impegno, però noi non demordiamo e siamo convinti che questa strada sia quella giusta, ecco. Perché c'è bisogno di restituire il protagonismo diretto ai lavoratori e alle lavoratrici. E allora, senza dubbio, ci schieriamo dalla parte di questo intervento che in qualche modo così è chiuso anche come un appello a tutti quelli che ascoltano dai nostri microfoni per partecipare, per far girare la voce, per raggiungere chiunque in ogni piccolo appalto, in ogni interstizio delle nostre complicate società, per partecipare a questo aperitivo che è anche un'assemblea e dare più visibilità e più forza a questo tentativo dei lavoratori di cui Jacopo ci ha parlato. Credo che, insomma, se c'hai un'ultima battuta da fare vuoi farla, falla pure. No, che se ci vediamo il 23 ci conosciamo, sta bene, con te ci conosciamo già, ma con tutti gli altri che verranno può essere un'occasione. Bene, e allora un salutone a Jacopo e a tutti i suoi colleghi, a tutti i compagni impegnati in questa impresa, e bene, a risentirci per la prossima volta, sperando che le cose siano in aggiornamento e che ci siano sempre cose interessanti da dire e da raccontare. Ciao Jacopo! Grazie, ciao a voi. Ciao, ciao.